smesso l'incidente dei tagli, con dire tutti i quanti tagli, con sale che noi zucca. Signore, che cazzo, non te fai mai una giusta, non te fai mai. Cemento caldo, suole di gomma, sudano piedi, nudi di calze. Ho visto cani cacare sui muri, poveri neri confusi dal crack. Restano chiusi gli infissi ad agosto, il nostro padrone facciata, così la sua casa sarà la più bella e noi finalmente dovremo lasciarla. Strada, dici che ora saremmo lì, viandanti ingenui, indisperati, abbracci suggeriti dal gelo. È una fine di merda, oppure no. proprio davanti casa. Credo fosse rubata, ma io l'ho presa lo stesso. Ti ho portato un po' ovunque, con il vento e col sole. Quattro mani e un manubrio, cantavamo così. Sopra il filo di una fosse só na sacra. Isto escolher-se e treinar de agosto. A paura desta carte, a força me ne foto. Faccio schifo. Faccio schifo. Abbraccia l'oblio e ora la desolazione. Stole some. colcare a tre zampe. Dormono Ernesto, Alessandro e Filippo, dorme il guardiano del cimitero. Grazie, Lipamina Milano, grazie mille a Girls, Caso, Lantern che suoneranno dopo, Gianni Mox che suonerà dopo, ma soprattutto grazie a Luca e Toulouse La Track per aver fatto questa cosa gigantesca. Grazie, grazie davvero. Grazie a Luchi. cambiatevi un segno di pace. Incontrate nel bosco, tieni a me.